La ilaha illallahu wahda. Non c'è divinità tranne Allah, unico. Wasadaka wa'ada. Egli fece verità della sua promessa. Wa nasara abda. Sostenne il suo servo. Wa azza junda. Diede potenza al suo esercito. Wa hazama al-ahzaba wahda. E sconfisse da solo gli alleati contro l'Islam. Wa la shay'a ba'dahu. E non c'è nulla dopo di lui.